A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ad Arcore, quando ascoltò la voce di Fassino di consorte, aprì gli occhi e saltò sulla poltrona e disse: caspita. Il respiro di Fabrizio Favata è affannoso e pesante, come il fardello delle responsabilità e dei suoi ricordi, quelli di una scalata bancaria del 2005, un'intercettazione e uno scoop, diventato prima un regalo di Natale per il Premier, poi tanti processi che hanno spalancato un Watergate tutto italiano e ancora tutto da definire. La luce obliqua come questa storia illumina il contorno dell'uomo che l'ha prima resa possibile, poi denunciata, e noi partiamo da qui per questa puntata di A ciascuno il suo. Ecco consorte. Pronto? Ciao Piero. E allora siamo padroni di una banca. È chiusa, sì. Intercettata il 7 luglio 2005 durante l'estate delle scalate bancarie incrociate, questa conversazione tra l'allora numero uno della Unipol, Giovanni Consorte, e l'ex segretario di DS, Piero Fassino, è diventata un caso dopo la pubblicazione il 31 dicembre sulla prima pagina del giornale della famiglia Berlusconi. Ne scaturirono fiumi di polemiche, asperi veleni e accuse incrociate pochi mesi prima delle elezioni del 2006, perché questa conversazione, registrata nell'ambito dell'inchiesta Unipol BNL, non era a disposizione delle parti, come nella stragrande maggioranza degli atti usati dalla stampa, e non era neanche stata trascritta. Quelle parole, cioè, esistevano solo nella viva voce dei protagonisti, impressa sulla memoria dei PC che li registravano per la Procura di Milano, e poi esistevano su quelle chiavette finite nelle mani di colui che per un giudice fu il beneficiario politico dello scandalo. Silvio Berlusconi era l'unico interessato alla pubblicazione della telefonata che avrebbe leso l'immagine dell'avversario politico. Lo scrive il giudice Stefania Donadeo, ordinando l'imputazione coatta per concorso in rivelazione d'ufficio per il Premier. È l'ultimo atto di un ciclone giudiziario che ha portato già alla sbarra il fratello, Paolo, e ha già visto il patteggiamento a 1 anno e 8 mesi per Roberto Raffaelli, titolare della società Research Control System, la RCS, che alla procura forniva computer e strumenti del suo collaboratore Eugenio Petessi, e alla condanna poi in rito abbreviato a 2 anni e 4 mesi per colui che aveva fatto da tramite tra i segreti del Palazzo di Giustizia e i saloni di Villa San Martino, Fabrizio Favata, 61 anni, imprenditore già in affari con Paolo Berlusconi, condannato anche per aver minacciato i suoi coimputati di denunciare in retroscena di quello scoop, vale a dire, scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza che vi anticipiamo, di svelare i reati commessi da colui al quale vengono richieste somme di denaro in cambio del silenzio. Parole che Favata contesta fermamente, con una sfilza di ricevute in mano che raccontano di debiti, gioielli in pegno e di grosse difficoltà economiche, quelle che ora gli fanno riempire gli occhi di lacrime perché non riesce a trovare un qualsiasi lavoro, dice, per riportare il riscaldamento nella stanza di mia figlia. Il giudice non ha esaminato compiutamente tutta la documentazione che abbiamo offerto. Raffaelli una volta al mese mi faceva un banconote, mi dava 250 euro, mi ha comprato un Rolex, ma ha cambiato un assegno di 6.000 euro. Non credo che le vittime delle estorsioni del clan dei Casalesi abbiano un rapporto di questo tipo con i loro aguzzini. Lei a un certo punto decide di voler raccontare, più che andare a denunciare, decide di farla venire fuori con un referente politico. Quindi prima bussa al PD e poi arriva all'Italia dei Valori. Ho cercato tramite il centralino del Partito Democratico il numero di telefono della senatrice Anna Finocchiaro. Esponenti del Partito Democratico sarebbero stati sicuramente interessati a questa vicenda. Lo stato di necessità mio, concordato anche con Raffaelli e Petessi, che mi procurano il primo appuntamento in procura nel 2008, mentre io prendevo a piene mani dalle tasche di Raffaelli e di Petessi, gioielli di mia moglie al Monte dei Pegni, la luce tagliata, il telefono tagliato, il gas tagliato, perfino l'acqua tagliata. Ma la storia di Fabrizio Favata diventa una storia di interesse collettivo dopo quella vigilia di Natale del 2005, quando a Villa San Martino, ad Arcore, risuonarono le voci di Consorte e Fassino e 4 persone stavano ascoltando come ricostruirono le inchieste partite dopo l'esposto di Antonio Di Pietro. Eravamo io, Raffaelli sulla mia automobile, e poi ci siamo trovati ad Arcore con Paolo e siamo entrati ad Arcore. Abbiamo aspettato 10 minuti e poi ci ha ricevuto Silvio Berlusconi. Si scusò, disse: vi ascolto a occhi chiusi, però state tranquilli che vi ascolto. Infatti quando ascoltò la voce di Fassino di Consorte, aprì gli occhi e saltò sulla poltrona e disse: caspita. Commentò anche il fatto che Fassino disse a Consorte: mi raccomando, prepara un piano industriale ben fatto, perché sennò sembra proprio un'operazione politica. Quindi il premier ascoltò quella conversazione soltanto? Solo ed esclusivamente quella conversazione. E che cosa disse dopo averla ascoltata? Ci ringraziò e disse che era estremamente riconoscente, sarebbe stato riconoscente per tutta la vita. Questo lo disse Silvio Berlusconi o Paolo? Silvio, ribadito da Paolo. Poi Paolo ci aveva già avvisato prima che doveva parlare un attimo con Silvio, perché voleva prendere un'azienda nel settore dei ciclomotori, la Garelli, e voleva sapere se erano in programma delle facilitazioni, un po' come la storia dei decoder che vendeva Paolo Berlusconi. Arriviamo a quell'estate del 2005, estate di scalate bancarie incrociate. A luglio, nell'ambito dell'inchiesta sulla tentata scalata Unipol BNL, viene intercettata la conversazione tra Giovanni Consorte e Piero Fassino, non indagato. Fassino dice: abbiamo una banca. Quando sapete di questa conversazione, lei e Raffaelli? Allora, Raffaelli viene a sapere di questa conversazione in questa maniera. Lo so perché lo dice ed è agli atti una persona ascoltata come persona informata sui fatti, Guido De Ambrosis. Un alto magistrato della Procura di Milano vuole fare un regalo a Silvio Berlusconi. Segnala Raffaelli questa intercettazione, Raffaelli la segnala al terzo coimputato, il quale mi avvisa, io avviso Paolo Berlusconi, facciamo ascoltare a Paolo Berlusconi questa intercettazione e Paolo vorrebbe averla subito. Raffaelli dice: no, in questo momento non te la posso dare perché sarebbe firmata la provenienza. Quando questa conversazione sarà presente in diversi computer del tribunale, a quel punto non si saprà più esattamente chi tira fuori l'intercettazione. In ottobre, se mi sembra che la cosa vada su diversi computer in tribunale, a quel punto Raffaelli si sente libero di far ascoltare l'intercettazione. Nelle vicende poi penali che ci sono state non c'è un alto magistrato coinvolto. Forse la procura avrebbe fatto bene aprire un fascicoletto su queste dichiarazioni. L'intercettazione di luglio, però poi a settembre questa conversazione, appunto, che era in file audio ancora, quindi non trascritta né tantomeno depositata alle parti, come arriva su una chiavetta? Chi materialmente la copia e da dove? Agli atti sembrerebbe che la procura chieda a Raffaelli dei computer su cui riversano dei diversi file con tante intercettazioni, fra cui questa. E Raffaelli ha in mano questo computer con questa intercettazione e la riversa su una chiavetta, e andiamo alla sera del 24 di dicembre, andati ad Arcore. Ecco, ma quindi è Raffaelli che copia da un PC su cui sapeva che si trovavano in quel momento gli audio delle conversazioni della scalata Unipol BNL sulla chiavetta? Sembrerebbe di sì, sembrerebbe che sia stata segnalata da un alto magistrato della Procura di Milano e che gliel'abbia mandata insieme ad altre intercettazioni su un computer. Raffaelli dice che gli è capitata casualmente, ma casualmente è come prendere, individuare una goccia d'acqua in una piscina olimpionica. Sull'esistenza o meno di un alto magistrato o di una talpa interna al palazzo, in realtà le indagini ci sono state. I magistrati hanno cercato di verificare l'esistenza di un'eventuale segnalazione di quell'intercettazione, ma non si è arrivati a nulla. Restano agli atti però le domande e gli aspetti non chiariti, ricordati anche dallo stesso PM Maurizio Romanelli nella discussione del rito abbreviato. Due sono le chiavette, una data a Silvio Berlusconi, la seconda è stata richiesta da Paolo 2 o 3 giorni dopo Natale. Raffaelli mi diede un'altra chiavetta, mi ricordo che erano le 7 di sera in Piazza della Repubblica, e io con quella chiavetta l'ho presa coi guanti e coi guanti l'ho portata a Paolo Berlusconi, perché non volevo lasciare tracce sulla chiavetta. Quindi un'altra chiavetta, oltre a quella portata ad Arcore, che lei ha consegnato a Paolo Berlusconi, questo prima della pubblicazione il 31 dicembre sul giornale. Esatto. Paolo Berlusconi le aveva detto che quale percorso avrebbe avuto il contenuto di quella conversazione intercettata? Ovviamente mi disse che sarebbe stata molto interessante pubblicarla, sarebbe stato uno scoop. Fiumi d'inchiostro, grandi polemiche, Fassino è parte lesa nei processi che ci sono stati per la storia di questo audio. C'era soltanto quella conversazione o ce n'erano delle altre? Ce n'erano delle altre. A ciascuno il suo. Un grande albero bianco, scintillante di decori. Mancavano ormai poche ore al Natale, la sera in cui l'audio di una delicata inchiesta, la tentata scalata Unipol BNL, risuonò nei saloni di Arcore, prima di finire sette giorni dopo sulla prima pagina del giornale. Allora, abbiamo una banca, chiedeva l'ex segretario dei DS Piero Fassino, non indagato, all'allora numero uno della compagnia assicurativa. Uno scoop che avvelenò come mai prima la campagna elettorale del 2006 e che, anche se non cambiò l'esito del voto, lo influenzò. Ora le inchieste e il verdetto di un giudice hanno stabilito che Fassino deve essere risarcito per quei danni, mentre a breve un altro giudice dovrà decidere se oltre al fratello Paolo anche Silvio Berlusconi deve andare a processo, ultima tappa di una storia giudiziaria che contempla già le condanne per chi fece uscire da un computer della Procura di Milano l'audio di un'intercettazione non trascritta e fece in modo che arrivasse ad Arcore. Una storia che spalanca interrogativi sulla riservatezza di informazioni così delicate e solleva dilemmi su un mercato nero delle intercettazioni. Una storia che raccontiamo anche per questo, con Fabrizio Favata, imprenditore già socio di Paolo Berlusconi, che mise in contatto la RCS, la società che realizzava gli ascolti per i PM, con coloro che per un giudice sono stati i beneficiari della pubblicazione di quelle parole. Qual era la contropartita che lei e Raffaelli contavate di ricevere da questo regalo di Natale, chiamiamolo così? Raffaelli stava cercando di entrare nel mercato rumeno delle intercettazioni telefoniche. Se fosse riuscito a entrare, ci sarebbe stata sicuramente una gratificazione anche per me e per il terzo coimputato. Ma in che modo Berlusconi poteva aiutarvi? Perché l'allora presidente della Repubblica Rumena, Anastase, aveva chiesto al governo italiano di finanziare l'operazione. E dopo la pubblicazione di questa famosa intercettazione, mentre scoppiavano polemiche a più non posso, ecco, i rapporti suoi con la famiglia Berlusconi come sono stati? I rapporti sono stati strettissimi fino a quando Paolo Berlusconi ha queste difficoltà finanziarie. Prima persona che ho contattato quando sono arrivato a essere veramente in difficoltà è stato Paolo. Gli ho ricordato la promessa che aveva fatto. Mi disse: come se tu mi hai accompagnato 2 anni fa, mi hai accompagnato a Bergamo e oggi mi vieni a chiedere i soldi della benzina. Ci sono rimasto veramente molto male. Lei e Raffaelli eravate consapevoli che in quel momento, da ausiliari di polizia giudiziaria, lui stavate commettendo un reato? Raffaelli in prima persona, perché disattendeva il contratto che aveva con lo Stato. Quando il magistrato mi ha chiesto: lei sapeva che avrebbero pubblicato? Non mi sono nascosto dietro il dito, ho detto: certo che lo sapevo. Sul piatto della bilancia, al vostro modo di vedere, il rischio doveva valere i guadagni futuri. Il discorso della Romania valeva 100 milioni di euro. Direttamente dalla famiglia Berlusconi, al di là delle promesse, avete avuto soldi? Paolo Berlusconi mi ha aiutato con qualche piccola dazione all'inizio. Quando lei dice all'inizio, vuol dire dopo la pubblicazione? No, quando ero malato, 2007, a me sarebbe bastato un posto di lavoro nel gruppo. Lei aveva mai avuto da Paolo Berlusconi qualche richiesta, diciamo così, di informazioni attraverso i canali di intercettazioni? Assolutamente sì, sia da Paolo Berlusconi che anche da Maurizio Belpietro, quando mi ricevette alla Mondadori. E da parte di Paolo Berlusconi che tipo di richieste lei anche in passato aveva avuto? Mi chiese se Raffaelli aveva l'intercettazione di D'Alema, in cui D'Alema diceva di non parlare al telefono. Quando lei va nello studio di Ghedini, in realtà tenta di parlare con l'avvocato Ghedini ad un collaboratore dello studio, in realtà ricorda di aver avuto anche altre richieste. Se era possibile intercettare Natalia Estrada, l'aveva lasciato da poco, lui era molto abbattuto. Al di là della vicenda specifica, che lei sappia, esiste un mercato delle intercettazioni? Non credo che esista un mercato delle intercettazioni, no? Anche se qualche registrazione probabilmente esce. Veniamo ancora quella sera ad Arcore. Quanto durò l'incontro? Una ventina di minuti. C'era quest'albero di Natale molto bello, bianco, i rami nudi con le decorazioni. Ecco, di grande effetto. Quella chiavetta che fu consegnata a Paolo Berlusconi, lei ha detto che è stata buttata poi? Io, su richiesta di Raffaelli, chiesi a Paolo Berlusconi di distruggerla, lui mi disse che l'aveva buttata nell'Adda. Ce n'erano due, no? La prima è stata consegnata a Silvio. Quella di Silvio non so che fine abbia fatto. Quella di Paolo mi disse che l'aveva distrutta. Voi avevate una copia? Io no. Le altre conversazioni, se quella sollevò più polemiche, però erano tutti argomenti sensibili. Che lei sappia, Raffaelli era informato delle altre conversazioni che c'erano? C'erano molti politici? C'erano diversi politici, perché me lo disse Raffaelli, c'erano degli altri politici, ma le avevano mischiate a bella posta. C'era Anna Falchi con Ricucci, perché me lo disse Briatore. C'erano mai stati contatti con la Telecom? Non lo so. A me interessava, prima per vicinanza, diciamo, politica, io, amicizia nei confronti di Berlusconi, della figlia. Quindi lei si sente tradito? Io credo di essere stato una spugna che hanno spremuto e che hanno buttato via. Io chiedevo soltanto la possibilità di poter mantenere la mia famiglia. Perché quando è andato nello studio di Ghedini ha registrato la sua conversazione con un assistente dell'avvocato? Da Dario Docet. Come strumento di ricatto? No, assolutamente. È come se prendesse appunti. Nel momento in cui ho bisogno, essendo stato l'artefice della rimonta di Berlusconi, perché ricordiamo, Berlusconi nel 2005 era cotto come cotto adesso. Se avesse mantenuto gli amici, forse oggi magari trovavo una via d'uscita. Si è meravigliato o meno della richiesta del giudice per l'imputazione coatta per Silvio Berlusconi? No, mi sembrava veramente un paradosso che Berlusconi, miracolato, perché nel 2005, ribadisco, era cotto come cotto adesso, la pubblicazione di quella intercettazione ha spostato montagne di voti. Voglio dire, a Silvio, chi gli porta qualche ragazza, prende 500.000 euro. Chiedevo soltanto la possibilità di sopravvivere io con la mia famiglia. Informazioni, spie e dossier, da sempre la politica si nutre anche di questo. La consueta chiusura letteraria di questa puntata di A ciascuno il suo ci porta nel primo secolo avanti Cristo col professor Giorgio Ieranò dell'Università di Trento. Catilina, che motivo c'è per attendere, se neppure le pareti di una casa privata bastano a coprire le voci della tua congiura? È così che nel 63 avanti Cristo, nella sua famosa prima Catilinaria, Cicerone riesce a sventare la congiura di Catilina grazie a un lavoro approfondito e capillare di intelligence. Si procura quelli che noi oggi chiameremo dei dossier, si procura delle informazioni riservate sulle basi delle quali riesce a portare queste informazioni in Senato e a costringere Catilina a lasciare Roma. Sono informazioni che gli arrivano da una tale Fulvia, per esempio, l'amante di una dei congiurati, ma sono anche lettere. All'epoca ovviamente non c'erano telefonate che si potessero intercettare, ma Cicerone riesce a bloccare uno scambio di lettere e sulla base di queste lettere risultano evidenti le responsabilità. È un caso esemplare di come l'uso di informazioni riservate serva a un politico per sconfiggere il suo avversario politico. È un caso esemplare ma non isolato nel mondo antico, perché era evidentissimo fin dall'antica Grecia che per l'uomo politico era fondamentale disporre di informazioni che gli permettessero di acquisire un vantaggio Del resto il primo capitolo nella storia dello spionaggio lo scrive già Omero. Nel 10° libro dell'Iliade, Ulisse e Diomede si infiltrano come spie a Troia per riuscire ad acquisire informazioni. Il caso di Cicerone resta comunque esemplare. Peraltro nella prima Catilinaria lui stesso si concede, come dire, il lusso di prendere in giro quasi Catilina. Dopo avergli elencato tutto quello che Catilina crede di aver fatto in segreto, gli dice: tutte queste cose sono venuto a saperle non appena sciolta la vostra riunione. E verrebbe da pensare che se Catilina fosse stato più attento alla riservatezza delle sue azioni, forse la storia di Roma e magari anche la storia del mondo sarebbe cambiata. A ciascuno il suo finisce qui. Per riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate, radio24.it nella sezione podcast o direttamente su iTunes. Se avete domande o commenti ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della precedente rubrica, o sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.